Radio 24 Reportage. Stop al numero chiuso all'Università Statale di Milano. Ma mancano i finanziamenti per aprire a tutti gli studenti. Di Maria Piera Ceci. Non sappiamo assolutamente niente, siamo nel nulla. When you came in the air, went out. Così Vittorio ci raccontava qualche giorno fa. Vittorio, finito nel nulla, nel buco nero normativo, insieme agli altri studenti che si erano iscritti al test d'ingresso per la facoltà di lingue all'Università Statale di Milano. Test annullato dal TAR del Lazio il 31 agosto, quindi solo qualche giorno prima dei test. TAR che aveva accolto il ricorso contro l'introduzione del numero chiuso nelle facoltà umanistiche all'Università Statale. Ci si aspettava a questo punto un ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Ateneo Milanese. Ma intanto che fare di questi ragazzi che avrebbero dovuto partecipare ai test quest'anno e che fra qualche giorno avrebbero anche iniziato a frequentare le lezioni, con il rischio che poi il Consiglio di Stato avrebbe potuto anche decidere di reintrodurre nuovamente i test? L'università si è messa una mano sulla coscienza e ha rinunciato al ricorso al Consiglio di Stato. Al via dunque le iscrizioni per quest'anno. C'è tempo fino al 16 ottobre. Il rettore Gianluca Vago preferisce rimandare al giudizio di merito la difesa delle proprie posizioni sul numero chiuso. Posizioni che non cambiano, ma che in questo momento vogliono tutelare l'interesse degli studenti. Non l'ho mai fatto nella mia vita professionale, no. Non mi piace tenere in ostaggio 4.000 studenti per un mese e mezzo senza che sappiano che cosa può capitare loro. Non è questo l'obiettivo. Noi rimaniamo in realtà convinti che sia necessario chiarimento legislativo su questo tema, al di là poi delle questioni più generali che riguardano il numero programmato. Ma a questo punto lasciamo l'accesso libero quest'anno, a marzo verificheremo se il numero degli iscritti rientra nei criteri di accreditamento, se non sarà così decideremo che fare. Le università sono finite in un paradosso, come spesso se ne vedono nel nostro paese. Da un lato la mano del TAR che dice no ai test, vuole che tutti gli studenti siano ammessi, dall'altro ci sono le regole molto precise su corsi e numero di studenti per garantire la qualità. Esattamente, noi abbiamo su tutti i corsi di laurea questo vincolo. La legislazione precedente, quella del 99, ha due elementi. Uno, non tiene conto di questo parametro per la decisione se introdurre o no il numero programmato, e questo a mio modo di vedere è la prima incongruenza. È come se noi dicessimo: per fare un corso ci vogliono 10 aule, voi ne avete 5, quindi il corso non lo fate, però non potete usare il numero delle aule come criterio per introdurre il numero programmato. Il secondo elemento è proprio questa disparità tra i corsi di laurea, che da un lato è ammessa per l'introduzione del numero programmato, in particolare per alcuni corsi sostanzialmente l'offerta di posti deve seguire la domanda integralmente, quindi se ci sono 10.000 studenti che vogliono fare la storia, noi dobbiamo farli entrare tutti. Dall'altro, le regole di accreditamento invece sono identiche per tutti i corsi di laurea. Se 10.000 studenti da me vengono e vogliono iscriversi a storia, io sono obbligato, se voglio fare il corso di storia, a prendere, faccia conto, 100 docenti di storia, per avere rispettato il rapporto tra numero di docenti e numero di studenti, il che ha due conseguenze. Uno, che se prendo 100 docenti di storia non ho più le risorse per prendere i docenti di biologia, di medicina e via elencando. E il secondo, ancora più paradossale, è che io prendo assumo 100 docenti di storia adesso, se l'anno prossimo anziché 10.000 studenti ne ho 10, io sempre 100 docenti di storia ho. Il mio problema adesso è che probabilmente noi inizieremo le aule e io avrò gli studenti sui gradini delle aule perché non ci stanno. Io ho pensato l'introduzione del numero programmato addirittura come uno strumento a tutela degli miei studenti. Insomma, università stritolata fra regole che prevedono obblighi fra loro in contraddizione. Una posizione non facile per i rettori. Intanto l'Unione degli Studenti, che aveva promosso il ricorso al TAR, non considera affatto chiusa qui la questione. Carlo Dovico, dell'Unione degli Studenti di Milano, insomma, battaglia vinta ma non la guerra. No, no, assolutamente. C'è ancora la sentenza di febbraio che dobbiamo aspettare e sulla quale siamo molto fiduciosi. Quindi il vostro appello al rettore perché unisca le sue forze alle vostre per fare una battaglia per avere maggiori finanziamenti per l'università, al di là di questa puntata, resta? Resta più forte che mai. Noi abbiamo sempre detto il nostro obiettivo non è delegittimare personalmente il rettore o portare l'Unimi sul banco del tribunale. Il nostro obiettivo è quello di far sì che l'università in Italia venga giustamente finanziata. Dopo la decisione del rettore, che cosa vi chiedono gli studenti che avrebbero dovuto sostenere il test d'ingresso per entrare alle facoltà umanistiche della statale? In queste ore cosa vi stanno chiedendo? Visto che le informazioni che dava l'università non erano mai chiare al 100% e facevano presagire che poteva anche essere che avrebbero perso l'anno, cosa che ci siamo subito preoccupati di smentire. Alcuni studenti si sono iscritti in altre università, faccio ad esempio gli Bergamo, di Pavia, che sono quelli più eclatanti, e quindi adesso si stanno trasformando sostanzialmente in una corsa invece a reiscriversi in statale a Milano. In attesa di capire cosa succederà alla Statale di Milano, alziamo lo sguardo sul resto d'Italia, perché in realtà ci sono già altri atenei che da anni operano in regime di numero chiuso per le facoltà umanistiche, per esempio Trento, Salerno, Perugia e Bologna, università che a questo punto potrebbero dover fronteggiare nuovi ricorsi. Il timore esiste, ci conferma il rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini. Beh, serve qualcuno individualmente che vuole sollevare la questione, ci può essere, onestamente sì, penso che possa capitare. So anche però che facendo noi riferimento a una normativa diversa da quella che è stata impugnata nel ricorso milanese, so anche che il nostro numero programmato è, credo, molto più solido dal punto di vista dei supporti normativi. Quindi credo che un eventuale ricorso più difficilmente avrebbe lo stesso esito che ha avuto a Milano. Lei è convinto di poter garantire in tal modo un livello qualitativo nella didattica superiore a quello che potrebbe garantire a tutti, avendo invece un numero non limitato o non programmato? Sì, assolutamente sì. Mi dia un esempio di quello che fanno i suoi studenti e che lo può garantire solo perché ha un numero... Ah, guardi, anche noi abbiamo appunto questo fatto che gli studenti ci sono in università, la nostra non è un'università a distanza. I nostri studenti sono in università, vengono in università, studiano in università, vengono a lezione, noi abbiamo una presenza in aula, una percentuale altissima rispetto agli iscritti. Direi che quasi tutte le persone iscritte all'Università di Trento partecipano alle lezioni e frequentano. E noi dimensioniamo la nostra capacità di accogliere studenti anche alla dimensione delle nostre aule, perché vogliamo che tutti possano avere un posto a sedere in aula, che mi sembra un... che non ci sia il lancio dello zaino sulla sedia per potersi accaparrare un posto, come ricordiamo, io che sono un po' vecchio ricordo i miei anni giovanili all'università, in piedi fuori dalla porta, qualche volta anche sotto la pioggia. Gli studenti dicono: abbiamo un numero di laureati bassissimo in Italia, in parte lo dice anche il Ministero dell'Istruzione, la ministra Fedeli, e quindi dobbiamo aumentare questo numero, e di certo non lo si fa con il numero chiuso. Ma guardi, questo non sono sicuro di questa affermazione. Io posso dirle che da quando noi abbiamo il numero programmato il numero dei nostri laureati è cresciuto, perché oggi là dove il numero programmato funziona e quindi ha una qualche forma di selezione all'ingresso, i tassi di abbandono sono molto bassi e la percentuale di laurea è molto alta, quindi è vero che a volte che nel totale nazionale forse questo può avere un effetto, ma a livello di università il numero dei nostri laureati in questi anni è cresciuto sensibilmente e la nostra capacità di laureare le persone è cresciuta notevolmente. Devo dire che i nostri laureati hanno anche dei tassi di occupazione molto alti rispetto alla media nazionale. Io però voglio aggiungere un'altra cosa. Noi abbiamo il 65% degli studenti che non è del nostro territorio e che viene da tutta Italia, perché siamo sottoposti, come dicevo prima, a una forte domanda da parte nazionale. Allora, o noi pensiamo che le università siano ristrette al territorio locale, come capitava quando andavo alle scuole medie io, che bisognava iscriversi nella scuola di quartiere e non si poteva scegliere dove andare, oppure è impossibile pensare che tutti possano andare dove vogliono, perché se tutti vogliono andare in una certa università, quell'università non può diventare gigantesca nel giro di 6 mesi e accogliere 3 volte gli studenti. studenti che vogliono andare. Quindi a noi abbiamo un sistema di mobilità nazionale. Oggi gli studenti si spostano moltissimo. Io credo che la grande scommessa sia dare a tutti gli studenti la possibilità di scegliere ciò che vogliono fare, perché io tra l'altro credo che sia giusto seguire le proprie vocazioni, prendendosi anche i rischi, poi che questo nel mercato del lavoro possa non essere esattamente ciò che il mercato del lavoro vuole, ma è giusto che la gente faccia ciò che vuole fare, però non necessariamente in un dato luogo. Cioè, io credo che tutti debbano poter studiare filosofia se vogliono studiare filosofia, ma non è possibile che tutti vogliano studiare filosofia a Trento, perché Trento non può essere un'università che accoglie 20.000 persone che studiano filosofia. L'investimento anche a livello nazionale dovrebbe essere quello sulla mobilità degli studenti. Noi dobbiamo investire, il paese dovrebbe investire nel dare alle persone i mezzi per poter andare a studiare dove vogliono o dove possono andare a studiare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.